Siamo qui come ogni lunedì sera per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi sulla figura del più santo dei santi, titolo che prendiamo dal testo che stiamo seguendo di Padre e Pegna e che questa sera ci conduce, diciamo, ad un altro tassello in parte già introdotto dalla catechesi precedente, ma che sarà, diciamo, ulteriormente approfondito e visto sotto qualche altra ulteriore sfaccettatura. Ricordo che nelle puntate precedenti, brevissimamente, abbiamo prima visto la verginità eroica e sublime di San Giuseppe, quindi la sua esimia e intangibile e intoccata castità, che però non gli ha impedito di essere vero sposo di Maria Santissima, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista della santità e anche della profondità dell'amore matrimoniale che San Giuseppe ha vissuto nei confronti della sua Santissima sposa. Mentre lunedì scorso, chi ha seguito ricorderà che abbiamo evidenziato ed approfondito il tema della paternità di San Giuseppe. Perché come il fatto che San Giuseppe, insomma, non abbia avuto, come dire, una vita matrimoniale come tutti gli uomini, diciamo così, comune, poteva far dubitare che fosse veramente un vero matrimonio quello tra Giuseppe e Maria, così il fatto che non era padre, tra virgolette, biologico di Gesù potrebbe ingenerare il sospetto e il dubbio in qualcuno che fosse una paternità quasi di serie B, o quasi, diciamo, vissuta a ribasso o ad un livello inferiore. Abbiamo visto la volta scorsa che così non è stato. Ecco, questa sera focalizzeremo ulteriormente lo sguardo, sempre aiutati dal nostro testo, sulla Sacra Famiglia. Ecco, quindi abbiamo visto quindi, diciamo, la volta scorsa, per esempio, l'importanza della figura del padre, e anche questa sera approfondire l'esemplarità e la sacralità della Sacra Famiglia ci darà la possibilità, più che mai urgente oggi, più che mai oserei dire assolutamente impellente, di riflettere sull'importanza e sulla santità della famiglia nel progetto di Dio della famiglia cristiana e quindi anche sui nostri doveri assoluti, ecco, e urgenti di e difendere questa istituzione che oggi più che mai, come sappiamo tutti quanti, è sotto attacco diretto, ecco, non soltanto da parte di movimenti culturali e di opinione pubblica, ma purtroppo con provvedimenti assai devastanti che a macchia d'olio si stanno cominciando a prendere sotto vari aspetti e a varie dimensioni e a vari livelli in non pochi, ahimè, ordinamenti giuridici. Soprattutto, ma anche qui non solo, appartenenti al mondo antico, cioè al mondo occidentale. Quindi la Sacra Famiglia, fu, ci dice il nostro autore, una famiglia perfetta, l'abbiamo già visto, in parte nella puntata precedente. In una famiglia perfetta regnano alcune virtù o alcune disposizioni stabili, ecco, che sono l'amore, numero uno, l'unione, numero due, e la comprensione, numero tre. E dove Dio deve essere, e nella Sacra Famiglia ovviamente era, al primo posto. Nella Sacra Famiglia c'è questa chiaramente particolarità che Gesù, il figlio prediletto, del padre, questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, è figlio umano di Giuseppe e di Maria, ma è anche il figlio di Dio, quindi il fatto che tutte le attenzioni sia di Giuseppe che di Maria convergessero verso Gesù e fossero polarizzate alla crescita umana di Gesù, che era poi la missione principale, come dire, principale, la prima in ordine di tempo che dovevano svolgere Giuseppe e Maria nei confronti del Verbo fatto uomo, automaticamente faceva, come dire, collocare la presenza di Dio al primo posto, in assoluto. Invito però gli ascoltatori a riflettere su questi tre, come dire, attributi di una famiglia santa, che è l'amore, l'unione e la comprensione. Attenzione a quando si parla di amore per quello che riguarda la vita familiare. Ecco. E ricordo uno dei primi libri che lessi all'inizio della mia conversione tanti anni fa, che era un libro di un prete francese, un buon divulgatore, insomma, anche se in qualche aspetto a volte un po' discutibile. Mi ricordo una frase che mi rimase impressa e che tuttora ricordo benissimo, quando diceva, parafrasando insomma così il contenuto evangelico dell'amore, amare è sempre lasciare se stessi per andare verso gli altri, no? In un certo senso rimandando all'inno cristologico della lettera ai Filippesi, quindi a questo Gesù che non considera un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spoglia se stesso, assume la condizione non di servo ma di schiavo e si mette a servizio degli uomini. Cioè, noi possiamo dire che c'è amore autentico quando c'è un'attenzione polarizzata verso il tu. Ecco, oggi si parla tanto di amore, però, e qui rimando anche gli ascoltatori alla splendida enciclica di Papa Benedetto XVI che è Deus Caritas Est, dove il Papa faceva proprio vedere come l'amore di cui oggi si parla e si straparla non ha nulla a che vedere con l'amore con la A maiuscola, che ha in Dio la sua fonte e il suo modello, e che il Papa chiamava amore agapico. Ecco, questo termine agape, che indica appunto l'amore di donazione, fu quasi un neologismo da parte dei cristiani, che appunto per distinguere questa forma di amore dall'amore meramente umano, che è quello conosciuto e oggi tanto, come dire, sbandierato o ricercato, presentato come l'assoluta felicità di questo mondo, che è il cosiddetto amore erotico. Amore erotico che non vuol dire necessariamente o immediatamente a sfondo direttamente, come dire, sensuale o edonistico, ma amore erotico vuol dire che ha sempre come punto di arrivo non il tu in quanto tu, ma sempre l'io, cioè è un movimento che parte dall'io, va al tu, ma ritorna sempre su se stesso e si esprime anche nel linguaggio, no? Tu mi piaci, io mi sono innamorato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando racconto queste cose, che ho la possibilità di fare qualche disegno, si fa sempre un disegnino sulla lavagna dove si vede due individui, una freccia che parte dall'uno e va verso l'altro, ma poi ritorna indietro, ritorna sempre verso il me. Quindi questo significa che nel momento in cui l'altro non è come io lo voglio, l'altro comincia a darmi fastidio, l'altro mi delude, l'altro mi in qualche modo toglie la libertà o tante altre cose che si dicono oggi in giro, oppure mi fa del male, finisce l'amore. Non è questo l'amore di cui parla e che ci ha manifestato nostro Signore Gesù Cristo, no? Quindi l'amore ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. L'amore comporta sempre una dimensione oblativa, disposta anche a soffrire, appunto per amore e per il bene dell'altro, numero uno. Numero due, l'unione. L'unione è assolutamente fondamentale. Ecco, io non so se in questa sede, perché mi esprimo anche in vari livelli, l'unione è un bene fondamentale e il male che è stato fatto alla famiglia con l'introduzione della legge Fortuna, cioè col divorzio, quindi con la rottura civile di quest'unione, una rottura civile definitiva, è un fatto gravissimo e tanto più grave quanto più questo dipende dal fatto che purtroppo è stato avallato dagli italiani che attraverso il referendum hanno voluto che questa sciagurata legge mantenesse vigore nell'ordinamento giuridico. Ecco, mantenere l'unione è sempre enormemente difficile a tutti i livelli, anche a livello ecclesiale. Non per niente l'ultima preghiera che Gesù ha fatto nel Cenacolo, nell'ultima cena, è stata la grande preghiera dove chiedeva al Padre: Padre, fa che tutti siano una cosa sola. come io e te siamo una cosa sola, come io sono in te e tu sei in me, così siano essi anch'essi in noi una cosa sola. L'unità è sempre molto difficile da raggiungere, da costruire, da edificare, da mantenere, perché l'unità è la composizione armonica e santa di diversità, perché noi non siamo tutti uguali, anche se qualcuno vorrebbe livellarci o uniformarci, anche i papi, non solo Francesco, ma anche gli altri, ma anche alcuni testi importanti del Magistero della Chiesa, hanno sempre distinto tra unità e uniformità. Cioè, l'unità non è che tutti la pensiamo allo stesso modo, che tutti siamo identici uno all'altro, che tutti siamo, come dire, come dei prodotti in serie indistinguibili l'uno dall'altro. Non è questa l'unità. L'unità è che nella diversità legittima e lecita c'è una capacità di comprensione, di andarsi incontro, di accogliersi, di rispettarsi. Questo è fondamentale dentro una famiglia. Perché a partire dalla differenza strutturale, adesso qui chiaramente non è il caso di approfondire questi temi, non stiamo facendo un corso prematrimoniale, ma l'uomo e la donna sono proprio strutturalmente differenti. E questa diversità strutturale c'era anche tra San Giuseppe e tra Maria Santissima. Certo, la Madonna aveva questo vantaggio, io dico sempre una frase che non so se è immediatamente comprensibile agli ascoltatori, no? La Madonna era donna al 100% e non era per niente femmina. Invece, purtroppo, le altre figlie di questo mondo, non so se si riesce a cogliere immediatamente, cioè, donna vuol dire una femminilità santa al 100% e vissuta in tutti gli aspetti positivi e tra l'altro in lei perfettamente equilibrati che vengono da Dio. Mentre invece quando si parla di femmina in senso non, come dire, comune, ma in senso un po' lato, si accenna appunto alla deformazione che generalmente è l'ipertrofia di alcuni aspetti della femminilità che poi diventano eccessivi o diventano difetti, no? Quindi si dice femmina quando si parla della donna seduttrice o quando si parla insomma di alcuni atteggiamenti estremi che a volte purtroppo a causa del fatto che siamo tutti quanti peccatori, gli uomini ce l'hanno sotto altri aspetti. Le donne possono assumere, ecco, però in ogni caso, anche se la femminilità della Madonna era perfetta e quindi facilmente, diciamo così, accoglibile da San Giuseppe, era comunque una differenza che si è composta in unità armonica. Ecco. E poi la comprensione, ecco. La comprensione è la capacità, sempre anche per noi molto difficile, di mettersi nei panni degli altri. E appunto etimologicamente comprensione vuol dire prendere con, cioè prendere insieme. Quindi mi prendo, ecco, le tue cose e le faccio mie, me ne faccio carico, ecco, senza lasciare che tu porti il carico da solo, quindi senza sbatterteli in faccia o sbatterteli addosso. Una famiglia santa, come era la Sacra Famiglia, dove c'è Dio al centro, è una famiglia assolutamente felice, per forza. E è una famiglia dove regnando queste cose regna sovrana la pace. Io guardate che vi posso dire, gentilissimi ascoltatori, perché lo dico anche alle coppie quando facciamo i corsi prematrimoniali, che non è affatto vero che dentro una famiglia ci debbano essere litigi o discussioni. Non è vero questo qui. Io ho avuto la sorte, insomma, di conoscere e di poter presentare personalmente durante corsi prematrimoniali, per esempio dalle mie parti c'è una coppia di patriarchi, io li chiamo così, che hanno fatto quasi 70 anni di matrimonio, 10 figli, cosa di questo genere. Alcuni figli non si sono sposati, quindi figlie soprattutto, hanno sempre vissuto con il papà e con la mamma. Sono venuti tranquillamente a dire al corso prematrimoniale che non hanno mai sentito i genitori mancarsi vicendevolmente di rispetto. Cioè, neanche a dire zitto stupido, non capisci niente. Questa cosa non si fa. Non parliamo poi di alzare le voci, di aggredirsi, di alzare le mani, di sbattere le porte, di prendersi a parolacce. Noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente cadere nel tranello di dire queste cose sono normali. È normale che accadano, oppure è umano. Non è vero neanche per niente. Non è né normale né umano, sono cose non umane, sono cose disumane. È certo che purtroppo possono succedere, perché siamo tutti quanti figli di Eva, ma il fatto che succedano è male. E una vita santa, con Dio realmente al primo posto, ecco, non semplicemente a parole, come dice San Giovanni, ma anche con i fatti e nella verità, diventa un antidoto. Cioè, io ricordo una coppia più giovani che hanno dato una testimonianza a un corso prematrimoniale, perché dopo io dicevo davanti a tutti i ragazzi: guardate che voi non dovete litigare mai, cioè voi dovete sposarvi per non litigare mai, perché una coppia di sposi cristiani non litigano e non discutono mai. Devo vedere le facce con cui mi guardavano questi. Una coppia di famiglia cristiana dialoga, nel senso che possono tranquillamente avere diversità di vedute, l'unità non è uniformità. Quindi io ho una posizione, tu hai una posizione, nel rispetto delle differenze e dei ruoli distinti, ne parliamo serenamente, dialogando e cercando di rispettarci, di comprenderci, di venirci incontro, e dopodiché troviamo una soluzione concordata. Questo è uno stile che uno si deve imporre. E io ricordo benissimo che dinanzi alle obiezioni di qualche giovanotto che diceva che questo era assolutamente impossibile, una dei membri di questa coppia, non mi ricordo chi, è intervenuto e dice: ma guarda che se tu manchi di rispetto al tuo sposo o alla tua sposa, il matrimonio è già finito. Quella è carne della tua carne, è ossa delle tue ossa, è sangue del tuo sangue. Tu non puoi e non ti devi permettere di mancargli di rispetto, mai e per nessun motivo. E quando ci prendono i 5 minuti, perché ci possono prendere i 5 minuti, prendiamo e ce ne andiamo da qualche parte, andiamo a fare una passeggiata, andiamo a farci una corsa, andiamo a fare un giro, ecco, ma non possiamo e non dobbiamo permetterci di sfogare la nostra rabbia su chi ci sta a fianco. Io non è che non mi renda conto, ascoltatori gentili, carissimi, che queste cose di cui sto parlando siano non alla portata, non di facile attuazione. Tra l'altro, chi vi parla conosce bene il suo assolutamente pessimo carattere, quindi sa benissimo quanto sia difficile e quanta fatica ci voglia a controllarsi, a dominarsi, a saper dirigere bene le energie, a contare fino a 10, eccetera. Ecco, però io sono sempre persuaso che, come diceva Padre Pio, la vera devozione alla Madonna e a qualunque altro santo consiste nell'imitazione. Quindi il senso che noi, che io intenderei umilmente e semplicemente dare a queste nostre conversazioni, oltre che all'approfondimento della figura di questo grande santo, perché aumenti la nostra devozione verso di lui, la nostra ammirazione nei suoi confronti e anche il posto che ha nella nostra vita interiore come aiuto e come intercessore, deve anche però essere una presentazione di un modello che ci ispiri ad una sempre più grande imitazione, perché San Giuseppe questo lo ha vissuto. Allora, la tradizione e anche alcuni scritti, adesso Anna Caterina Emmerich è diventata beata, quindi i suoi scritti hanno passato il vaglio della Chiesa. Voi sapete che gli scritti di coloro che attraversano un processo di canonizzazione sono vagliati dalla Chiesa una persona nominata venerabile, quindi già prima che beata, vuol dire che i suoi scritti hanno passato il vaglio, non nel senso che siano riconosciuti, ovviamente, come rivelazione privata, ma nel senso che non contengono nulla di contrario alla fede e alla morale cattolica, che è certamente un giudizio non come dire di approvazione e di sottoscrizione assoluta, però è un giudizio come dire già considerevole da parte della Chiesa. Anna Caterina Emmerich, e non è l'unica sotto questo punto di vista, ci informa che San Giuseppe andò in sposo alla Madonna all'età di circa 30 anni. Ipotesi molto verosimile, senz'altro molto molto più verosimile, ricorderete, di quella abbastanza fantasiosa fatta dal Protovangelo di Giacomo di cui parlammo a suo tempo. Quindi aveva la pienezza delle forze umane ed anche quella maturità necessaria per far fronte a tutte le sue responsabilità di capofamiglia, che come abbiamo visto si è preso sotto tutti i punti di vista. Ora, noi sappiamo dagli scritti evangelici, che questa sera diciamo continueremo a lambire, concludendo diciamo questa prima parte, che è un po' una parte diciamo introduttoria di presentazione globale della figura di questo santo, diciamo in maniera molto sintetica, il Vangelo di San Matteo ci ricorda che San Giuseppe era un uomo giusto. Quindi giusto è già molto, ecco. Santo è molto più che giusto, ecco. E la santificazione di San Giuseppe, la pienezza della sua santificazione è passata indubbiamente attraverso il matrimonio con Maria Santissima, che ha praticamente, come dire, dato l'overture a una sinfonia, diciamo, inarrestabile verso vette di santità assolutamente straordinarie, fuori del comune, perché San Giuseppe dentro la Sacra Famiglia ha avuto un contatto quotidiano, ecco, quotidiano e molto molto concreto con Gesù e con la Madonna. Capite? Guardate che tutta la nostra santificazione anche adesso, da che cosa dipende? Dipende dal contatto che abbiamo, più o meno approfondito, con Gesù e con la Madonna. Da qualunque padre spirituale uno si rechi, che voglia fare un cammino di santificazione. Qualunque padre spirituale di questo mondo, insomma anche il più sprovveduto, presumo e credo, suggerirà all'anima di andare a messa tutti i giorni, di confessarsi il più spesso possibile e di prendere il rosario in mano e cominciare a recitarlo con una certa intensità. Voi pensate che in un libro che lessi tempo fa, attendibile, c'era praticamente il resoconto di qualche abitante dei piani bassi, cercate di capire la metafora, che durante un esorcismo diceva queste parole testuali: se qualcuno va a messa e si fa la comunione tutti i giorni e recita il rosario intero, però, attenzione, quindi ci vuole un po' di fatica, quotidiano, se uno è capace di fare questo, noi demoni non potremo fare ordinariamente, a meno di un evento straordinario, danni considerevoli alla sua anima. Danni considerevoli vuol dire che se una persona è blindata in questo modo, per fargli commettere un peccato mortale, ci vuole che mobilita mezzo inferno. Non è una cosa semplice. Cos'è questo? Contatto chiaramente quotidiano e molto intenso con Gesù e con Maria. San Giuseppe lo aveva tutti i santi benedetti giorni e a tutte le sante benedette ore. Quindi, e guardate, quando si parla di contatto. Io invito molti, io ogni tanto, come dire, mi rammarico un pochino di tante cose che si sentono dire, no? Dice, ma io prego il Signore a casa mia. Non c'ho bisogno di andare a messa o andare in chiesa e queste cose, dico, ma dico, figlio mio, dico, ma tu come fai a dire una cosa di questo genere? Perché se Gesù ha istituito un sacramento e se questi sacramenti realizzano una sorta di contatto, capite, fisico tra noi e Lui, tu come fai a pensare di poterne fare a meno? Se uno si legge gli scritti di San Tommaso d'Aquino, e attenzione che San Tommaso d'Aquino per quanto riguarda i sacramenti ci ha visto benissimo, perché la Chiesa al Concilio di Trento ha fatto proprio copia e incolla, diremo oggi, con alcuni scritti di San Tommaso, che ha praticamente preso in blocco e sottoscritto nei decreti sui vari sacramenti che sono stati fatti nel Concilio Tridentino. San Tommaso diceva: guarda che c'è bisogno del contatto, cioè il contatto sacramentale è fondamentale, perché noi siamo esseri umani, non siamo puri spiriti, quindi abbiamo proprio bisogno proprio del contatto, capite? Anche con la Madonna, cioè il rosario, si dice, con la corona del rosario da tenerla. Voi sapete che tanti santi, Santa Teresa di Calcutta, San Pio e tanti altri, avevano sempre la corona del rosario in mano. Non è questo un gesto fanatico o da persone mezze invasate, eccetera, no? È un modo con cui io dico alla Madonna, chiaramente non abbiamo noi tempo di stare magari a pensare dalla mattina alla sera soltanto alla Madonna. Io lo vorrei tanto, ma purtroppo non ci riesco. Allora, tenere il rosario in mano è un modo con cui io dico continuamente alla Madonna: guarda, tienimi per mano, stammi vicino, che già di qua ne combino non si sa quanti dalla mattina alla sera. Dammi una mano, tu, perché almeno ne possa combinare un pochino di meno. È un gesto che si compie, è una forma di contatto. Ecco. San Giuseppe era a contatto continuo. Per questo che noi non possiamo assolutamente dubitare, come troviamo scritto in questo testo, che San Giuseppe è il più santo dei santi, perché nessuno ha avuto un contatto così intimo, così intenso, così prolungato e così reale, diciamo, realistico, come San Giuseppe. Campare una trentina d'anni a fianco alla Madonna e a Gesù quotidianamente e farlo da capofamiglia è un'esperienza straordinaria. Guardate che bello, voglio citare un passaggio di questo testo che fa proprio comprendere in maniera santa, come dire, una sorta di flash su uno squarcio di vita quotidiana della Sacra Famiglia di Nazareth. Cito testualmente e leggo: è bello pensare a Maria e a Giuseppe verso l'imbrunire, dopo un giorno di lavoro o di sabato, giorno di riposo, uniti in preghiera, mano nella mano. Possiamo pensare che San Giuseppe e Maria Santissima se la siano tenuta. È un gesto affettuoso, ecco. È un gesto bello. È un gesto che Giuseppe e Maria probabilmente facevano. Ecco. Certamente noi sappiamo benissimo che non hanno avuto nessuna forma di contatto a dimensione erotica. Ecco. Però quando io parlo ai giovanotti che vogliono vivere il fidanzamento santo, non vorrei adesso aprire questa parentesi molto lunga, nel fidanzamento santo i contatti sono quasi nulli, gentili ascoltatori, se uno vuole vivere secondo la volontà di Dio. Uno dei contatti, per esempio, possibile, che è da riscoprire nella sua bellezza, perché oggi purtroppo con il fatto che c'è un dilagare pazzesco dell'impurità, alcune cose neanche si apprezzano e si scoprono, è proprio tenersi mano nella mano, un gesto che può essere davvero splendido e meraviglioso. Dobbiamo immaginare Gesù, Giuseppe e Maria mano nella mano, o parlando di Gesù, che era il fulcro delle loro vite, Sto riprendendo la citazione. Immaginiamo Giuseppe mentre costruisce qualche giocattolo di legno per Gesù bambino. Episodio anche questo attestato in più di qualche scritto, avente chiaramente il carattere di rivelazione privata, che parla di queste cose. Io le ho lette. Con quanto affetto lo avrà fatto? Gesù bambino giocava, ragazzi e ascoltatori carissimi. Gesù bambino aveva i suoi giocattoli. Questo mi... Per cui tu potrei... Cioè, non lo so se viene a voi ascoltatori di stupirvi, però Gesù bambino che gioca, si può e si deve dire, Dio sta giocando. Il figlio di Dio gioca. È impressionante questo. Cioè, noi dovremmo penso anche un po' nella nostra vita interiore. Io in questi giorni ho la grazia di poter stare in montagna e riscoprire un po' di dimensione contemplativa. Contemplativa vuol dire che tu ti metti a pensare intensamente a un mistero che può essere un mistero così grande come il figlio di Dio che si fa bambino e che gioca, cercando, come dire, stupendoti dinanzi a quello, magari senza stare a pretendere di capire chissà che cosa, guardarlo e meravigliarti di tanta bellezza, ecco. Provare un pochino di stupore. Tenete presente che adorare, una delle etimologie del termine adorare è portare alla bocca, ad os oris in latino significa bocca, no? Allora, adesso purtroppo per radio non si può far vedere, no? Avete visto quando uno rimane a bocca aperta e si strabuzza gli occhi e si porta la mano davanti alla bocca quando sta vedendo qualcosa di grande e fa e si mette la mano davanti alla bocca. Ecco, contemplare, come dire, le grandezze delle opere di Dio e anche, come dire, a volte l'incomprensibilità, il mistero insondabile che si trova in queste, no? Io posso dire, qualche tempo fa ho portato i ragazzi del post-cresima, come dire, in un museo zoologico acquatico, e io sono rimasto, come dire, incantato a guardare gli animali addestrati, tipo i delfini o tipo le altre cose che facevano delle... Ma non per la bellezza dello spettacolo in sé, ma guardando in queste creature, ecco, così particolari, alcune delle perfezioni divine, guardando, come dire, anche in loro, come dire, una sorta di bontà provvidente di Dio, no? I delfini sono animali intelligentissimi, carinissimi, amici dell'uomo, no? Un regalo che ci ha fatto nostro Signore. Ecco, pure questi giorni noi stiamo qui qualche giorno a riposo in montagna, assolutamente splendido poter guardare, ecco, guardare gli alberi, sentire l'acqua di un ruscello, guardare il cielo, guardare un tramonto. Questi sono tutti quanti, sono SMS che Dio ci manda, e guardate che uno si legge gli scritti di San Giovanni della Croce. Questi sono pallidissimi e lontanissimi riflessi della bellezza incredibile che Dio ha in se stesso. Addirittura San Giovanni della Croce dice che se tu vuoi unirti a Dio, la contemplazione di queste cose, che già è un dono grande e oggi così poco diffuso, perché noi oggi siamo semplicemente consumatori e fruitori di tantissime cose senza la capacità mai di coglierne l'essenza, San Giovanni della Croce dice che addirittura fare questo è un ostacolo all'unione con Dio, perché pur vedendo queste perfezioni, che sono chiaramente una firma della divinità, queste sono così lontane da quelle che è la divinità in se stessa, che se ti attacchi a loro non ti unirai mai a Dio. E questo è vero per la dimensione mistica, no? Ecco, eppure San Giuseppe ha visto suo figlio vero, che era il figlio di Dio, giocare con i giocattoli che gli ha fatto. dobbiamo pensare che San Giuseppe ha goduto dell'amore anche molto tangibile di Gesù Bambino. Cioè, Gesù Bambino dava i bacetti a papà e a mamma, e gli dava anche degli abbracci, così come fanno i bambini. Ecco, io ogni tanto mi fermo a guardare i bambini, nessuno pensi male, bambini di 4-5 anni, 6 anni quando sono piccoli, che sono uno spettacolo unico al mondo per alcune cose che fanno, no? Per l'intelligenza vispa che si comincia a vedere, o per la spontaneità di tante situazioni. C'è stata una persona, mio figlio spirituale, che un pochino di tempo fa viene a dirmi: ma lo sai che mio figlio mi è venuto a dire che lui parla tranquillamente con San Michele? Tranquillo, che San Michele gli ha detto che la moglie era incinta, e ha detto: cioè, no, ma io lo so che mamma dentro la pancia, adesso io non ricordo l'episodio, quindi potrei sbagliarmi, però il senso era questo qui. Mamma dentro la pancia c'ha un maschietto, fa. E chi te l'ha detto? A me l'ha detto San Michele Arcangelo, io lo vedo tutti i giorni. Adesso se è vero, se l'è sognato, non ha importanza, no? La cosa che ti lascia senza parole e che è da ammirare come spettacolo divino è l'innocenza e la spontaneità di un bambino. Se anche un bambino vede San Michele Arcangelo, quella è la cosa più normale del mondo. Non so chi di voi ha visto la fiction di Padre Pio con Castellitto, che è secondo me fatta decentemente. Quando Padre Pio bambino incontra quel frate, gli dice che lui vedeva la Madonna. Dice: ah, ma io la Madonna la vedo tutti i giorni. Fa: ma certamente anche tu la vedi, no? E il frate gli risponde chiaramente, dice: ma guarda che io la Madonna non l'ho vista mai. Dice: guarda, quindi quando la vedi salutamela. E Padre Pio tranquillamente, Padre Pio bambino, gli risponde: ma come non l'hai vista mai? Io la vedo. Certo che la vedi pure tu mi stai a dire che non la vedi per umiltà. Perché i bambini sono fatti così. Ecco, sicuramente San Giuseppe, in questo spirito altamente contemplativo, era straordinariamente eccellente. Certamente ha conosciuto anche momenti difficili all'interno della famiglia, momenti difficili che hanno saputo superare con estrema fede, spirito di abbandono in Dio. San Giuseppe sappiamo che era giovane, quindi era un uomo laborioso, un grande lavoratore e anche un grande santo, che era capace di offrire le proprie sofferenze, forse anche quelle in qualche momento, sicuramente lo vedremo la prossima volta, durante la fuga in Egitto ci sono stati dei problemi senza alcun dubbio, anche economici, nel senso, tu ti ritrovi in una terra straniera senza arte né parte, certamente tu sei un artigiano ma non ti conosce nessuno, non c'è un cliente, non c'è niente. Quindi, siccome non sono stati una settimana in Egitto, sono stati abbastanza a lungo, ha dovuto, come dire, reinventarsi, come dire, la propria professionalità, rifarsi un giro di clienti che non aveva. Quindi è possibile, è verosimile più che possibile, che la Sacra Famiglia abbia vissuto dei momenti difficili. Certamente non li ha vissuti con nessuno spirito di disperazione né di angoscia, certamente con la sofferenza, che figuriamoci quanto sentivano Gesù e Maria, di non poter dare a Gesù il tutto che avrebbero voluto, il molto che avrebbe assolutamente meritato, insomma, in quanto non solo figlio di Dio ma anche figlio in tutto e per tutto esemplare. E quindi San Giuseppe faceva il falegname. Che facesse il falegname è certo non soltanto dalla testimonianza dei Vangeli. Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo visto come Gesù era conosciuto come il figlio del falegname, ma c'è una testimonianza che è bene citare esplicitamente, di San Cirillo di Gerusalemme, che afferma che nel IV secolo a Gerusalemme, quindi, si mostrava ai visitatori della città un pezzo di legno a forma di tegola che era stato lavorato da Giuseppe e da Gesù. Per completare, diciamo così, il quadro un po' biografico di San Giuseppe, la tradizione ci ha tramandato che San Giuseppe morì non molto tempo prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù. Di questo fatto abbiamo una testimonianza indiretta dai Vangeli, perché sappiamo che le nozze di Cana, e siamo agli inizi, proprio agli albori della vita pubblica di Gesù, era presente Maria Santissima, ma non viene fatta menzione di San Giuseppe. Impossibile che a queste nozze fosse stata invitata la Madonna e anche Gesù, come dimostra il fatto che ci è andato, e non fosse stato invitato San Giuseppe. Quindi è una prova certamente indiretta, ma abbastanza forte, dell'attendibilità di questa tradizione. Quindi San Giuseppe sarebbe passato a miglior vita prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù. E anche l'Evangelista San Marco, questa è un'altra, come dire, prova indiretta, quando nomina Gesù lo presenta sempre come figlio di Maria, non lo menziona proprio San Giuseppe. Sappiamo che San Marco è tra i sinottici, è l'unico Vangelo che non ha nessun riferimento ai Vangeli dell'infanzia, quindi San Giuseppe nel Vangelo di San Marco non c'è proprio, d'accordo? Ecco. E non c'è, non certamente per mancanza di rispetto, adesso non è il caso di fare un corso di esegesi, ma cominciando direttamente dalla vita pubblica, e secondo San Marco è acclarato il fatto che la Madonna era vedova e quindi che Gesù nel momento della sua vita pubblica era semplicemente il figlio di Maria. Addirittura la gente di Nazareth nel Vangelo di San Marco usa questa espressione: non è il falegname il figlio di Maria? Quindi ci si fa comprendere abbastanza bene. Per concludere, ecco, chiaramente questa famiglia, famiglia unita, famiglia felice, famiglia realmente felice, famiglia felice anche in mezzo alle tribolazioni e alle difficoltà che ha dovuto passare. Ecco, la felicità non è la presenza del piacere e del benessere al 100%. La felicità viene, noi lo sappiamo, dal fare la volontà di Dio in tutto e per tutto. È figlia diretta del mettere Dio al primo posto e del servirlo, ed è quel senso, diciamo così, di appagamento e di gioia interiore che a volte coesiste anche con sofferenze molto grandi, e che è data semplicemente dal fatto e dalla coscienza profonda e depositata nel cuore che si sta facendo, pur nella miseria, nella povertà, quello che Dio vuole. Chiaramente il cuore pulsante di questa famiglia era il cuore di Gesù, il secondo cuore nobile di questa famiglia era il cuore immacolato di Maria, ma c'era anche il cuore di San Giuseppe. Ecco, c'è stato qualche autore, per esempio San Giovanni di Eud e anche San Francesco di Sales e San Leonardo da Porto Maurizio, tra l'altro, che hanno avuto modo di San Giovanni Ed, penso che sappiate che si è occupato tantissimo del cuore ammirabile della Madre di Dio e quindi anche del cuore di Gesù, ha tutta una teologia spirituale fondata sul cuore, e dove colloca anche il mistero di San Giuseppe, affermando tra l'altro che dopo Dio San Giuseppe nel cuore di Maria occupa il primo posto, perché ella era tutta di Giuseppe come la sposa lo è dello sposo. Quindi noi dobbiamo immaginare la Madonna che ha amato tanto San Giuseppe e che ha sofferto molto per la morte di San Giuseppe. Quindi il cuore di Maria è senza dubbio il cuore di San Giuseppe. E d'altro canto, dal momento che il cuore di Maria era una sola cosa e batteva all'unisono con quello di Gesù, e siccome Maria era una cosa sola con San Giuseppe, questo è il ragionamento che fa San Giovanni Ed, così San Giuseppe possiede un solo cuore con Gesù e con Maria. Ecco perché la tradizione della Chiesa, e vorrei concludere con questo pensiero, ha sempre raccomandato, questa è un'idea di San Leonardo da Porto Maurizio, grande francescano morto nel XVIII secolo, nel 1751, che questi tre cuori, tutti e tre umani, anche se il cuore di Gesù è il cuore divinamente umano e umanamente divino, rappresentano una sorta di scalino, di scalini per giungere al cuore di Dio, il cuore di San Giuseppe, il cuore di Maria e il cuore di Gesù. È per questo, ripeto, che la Chiesa ci ha consegnato quelle belle preghiere che si dicono, per esempio, al mattino o alla sera, ma si dicono anche come invocazioni sugli agonizzanti, sui moribondi. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Proprio a significare questa unità intensissima che si è realizzata nella Sacra Famiglia, ecco, e in cui il cuore di San Giuseppe, che per certi aspetti è quello più vicino a noi, perché è il cuore del più santo di tutti, ma uomo pura creatura, e pura creatura quantomeno colpita dalla colpa originale, come tutti noi, che ha vissuto in maniera profonda e vera un'unione grandissima col cuore di Maria e quindi col cuore stesso di Gesù, rappresentando un po' attraverso la sua persona, la sua personale esperienza, il cammino che tutti noi dobbiamo percorrere. Una grande unione con la Madonna che ci porti ad una strettissima unione con il cuore di Gesù, fino a vivere questo contatto possibilmente quotidiano in maniera più stretta e più intensa possibile. Io mi fermerei qui.